Per lo spazio in mostra su Radio Città Fujiko, beh, intanto ritroviamo Caterina Molteni che già abbiamo conosciuto per un'altra esposizione. Ora è impegnata al Mambo per un percorso espositivo imminente, ne abbiamo la possibilità di condividerlo con questa conversazione e per conoscere una protagonista tra immagine, danza, parola e quant'altro. Intanto do il buongiorno a Caterina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Yvonne Reiner, iniziamo con una piccola biografia, identikit di questo personaggio. Certo, Yvonne Reiner è una delle figure più importanti della storia dell'arte recente, è una coreografa, danzatrice, regista, teorica e poeta, e quindi la mostra appunto si chiama Parole, Danze e Film proprio per cercare di dare un ritratto complessivo della sua figura. È nota internazionalmente per aver rivoluzionato il mondo della danza negli anni 60, proponendo un approccio minimalista che quindi trovava ispirazione nei movimenti ordinari del corpo, quindi il movimento cinetico, quindi quello che, di cui facciamo esperienza quotidianamente correndo, camminando, spostando degli oggetti. Nel 72 decide però di darsi al cinema, per cui per quasi 30 anni smette di fare coreografie e di danzare per dedicarsi all'attività cinematografica, che è segnata da una forte componente di indagine politica e sociale, soprattutto sui temi legati al femminismo, al razzismo, al classismo, quindi con un forte sottotesto politico. Più recentemente, poi nel 2000, Yvonne Reiner torna alla coreografia e inizia anche a scrivere poesie, per cui una parte della mostra è infatti dedicata alla sua produzione poetica. Entrando in mostra, che percorso troviamo? La mostra si apre con un video della coreografia che l'ha resa proprio irrinunciabile da studiare, perché si occupa di danza e di performance, che è la documentazione di Trio A, che è la danza che l'ha resa proprio famosa, ed è una sorta di danza manifesto dove possiamo trovare tutte le caratteristiche della sua visione sul movimento. Proseguendo, la Sala delle Ciminiere è stata trasformata in un cinema dove ogni giorno ci sarà in programmazione un film differente, quindi sono 6 film in programmazione ogni giorno della settimana. Un'altra parte della mostra racconta le sperimentazioni video che precedono il cinema, quindi cercando anche una sorta di continuità tra la danza e il cinema. Un'altra sala è dedicata a Lives of Performers, che è il primo film dove proprio è evidente la compresenza di interessi della coreografia e del cinema, fino poi a entrare in una grande sezione d'archivio dove troviamo parti, documentazioni sulla sua produzione teorica e una timeline che racconta dal 60 al 73 le principali coreografie di Reiner. Io intanto sto vedendo un'immagine di un Che Guevara impegnato in un terzo tempo cestistico che mi ha lasciato veramente stupefatto per la bellezza dell'esecuzione, parlo da ex professionista, insomma, per cui almeno nel basket con una certa competenza. Non sapevo di questa passione del Che. No, allora, queste immagini che sono appunto nella sezione d'archivio erano immagini che venivano proiettate nelle performance, per cui lei aveva questa metodologia che chiamiamo intermediale, per cui le performance non includevano solo movimenti, ma anche immagini in movimento, proiezioni di immagini, ovviamente musica, oggetti di vario genere, solitamente non inseriti nella danza moderna, come materassi, valigie, altalene. E quindi questa parte era appunto un modo per dare al pubblico un'idea di che tipologie di immagini, anche quasi randomiche, no? arrivavano durante la performance. No, ne sono rimasto così attirato per la perfetta esecuzione del movimento, comunque, e anche come è stato ripreso, esatto, comunque. Probabilmente l'interesse era proprio per il gesto, no? Cioè anche il gesto di una persona che solitamente non fa basket, ma poi mira al canestro, diventa un gesto da cui ispirarsi, no? Come una persona non professionista esegue un gesto. E infatti i performer non professionisti erano spesso impiegati da Reiner proprio per cercare di normalizzare il più possibile un movimento e uscire da quell'agonismo a cui, certo, spesso siamo abituati, bello, guardando la danza, no? Sì, in effetti è proprio un messaggio, non è stata casuale questa divagazione. Aggiungo un'ultima osservazione, il bianco e nero. Bianco e nero sì, perché la produzione, gli anni 60 e 70 venivano tendenzialmente documentati in bianco e nero, anche se poi nei film vediamo un inizio di bianco e nero nel 72, poi dal 74 comincia invece la cinematografia a colori, almeno per Yvonne Rainer. Abbiamo un po' ripreso questi colori all'interno della mostra, per cui sicuramente è una nota di colore, di non colore, non che si colore nota. Che si nota. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro un buon proseguimento e una buona giornata. Grazie. Grazie mille a tutti.